grande piacere perché, lo dico anche a livello personale, dopo tantissimi anni ho ritrovato un mio amico, Leonardo, e poi anche il cugino e tante persone che hanno fatto il liceo e con cui ci siamo incrociati per tanti motivi. La figura di Umberto Gandini, che voi conoscete e avete apprezzato sicuramente, è viva in questa biblioteca per tanti motivi, ma in particolare mi preme sottolineare la biblioteca che abbiamo ereditato, una biblioteca che ormai è stata catalogata quasi per intero, occupa un posto qui in entrata nel foyer e è molto utilizzata tra l'altro da studentesse e da studenti che partecipano anche al premio Claudio Augusto, un premio che ogni anno organizziamo per chi si laurea a seconda delle discipline, e so che anche da persone che lavorano nel campo, nel settore della cultura ed in particolare della traduzione, della critica teatrale, eccetera, fanno riferimento ai testi che noi abbiamo oggi qui in biblioteca e che per volontà di Umberto Gandini e soprattutto anche col consenso poi l'entusiasmo anche di Leonardo, che ho sentito anche l'anno scorso, viene messa a disposizione del pubblico, un bene comune che intendiamo coltivare nel tempo. E pochi mesi fa c'è stata l'occasione di sentirci via mail e poi telefonicamente in merito appunto a degli scritti scoperti, ma poi non aggiungo altro, e quindi che hanno portato al risultato di questa sera che viene proposto e presentato a voi con l'aiuto anche di Fabio Zamboni, che ringrazio perché si è fatto anche in parte promotore di questa cosa, e ringrazio anche Alessandra Limetti che questa sera darà voce anche ad alcuni brani. C'è un video che verrà mostrato a voi, ma soprattutto anche la biblioteca ha una bella intervista che aveva rilasciato tantissimi anni fa, io credo una decina di anni fa, l'ho ripresa in mano tempo fa perché mi interessava in occasione dell'autonomia e di questo anniversario che stiamo continuando a ricordare nel 2022 con tante iniziative. Avevo ripreso un'intervista rilasciata a Giorgio delle Donne per conto del nostro archivio orale da Umberto Gandini, ed è stato interessante conoscere come si è mosso nell'ambito anche culturale, ma come testimone e giornalista nell'ambito della storia della nostra autonomia. Ci sono dei momenti molto difficili, dei momenti molto più semplici, però diciamo anche questa intervista un pezzo di storia e anche una generosità che è riuscito a regalarci, come nell'ambito della storia anche un po' complicata, se vogliamo, nella nostra terra. Bene, a questo punto non dico più niente, se non grazie ancora a Leonardo, che mi ha fatto tanto piacere ritrovare, e un grazie a tutti voi che siete qui anche in nome di Umberto Gandini. Ecco, grazie. Grazie, buonasera a tutti. E la direttrice mi fa risparmiare l'introduzione, quindi usiamo il tempo per argomenti più interessanti. E se siete qui è molto probabilmente perché già conoscete bene la figura di Umberto Gandini. Io aggiungerò solo una biografia essenziale, un minuto, per ricordarvi la sua attività che nel campo culturale si è espressa sia nel giornalismo, sia nella traduzione, nella critica teatrale e poi nel pubblicare 8 romanzi. E lui è nato nel Natale del 1935 a Milano, però si è trasferito subito a Merano, famiglia mistilingue, quindi tedesco già perfetto da piccolo, infanzia a Merano, poi a Bolzano, dove ha vissuto fino alla scomparsa che è avvenuta un anno fa, nel marzo del 2021. Giornalista, colonna diciamo, sicuramente del quotidiano Alto Adige, tanti anni, ma anche con un'esperienza al Giorno di Milano, che aveva aperto una redazione qui per alcuni anni, corrispondente dell'Espresso e del Messaggero. Per quanto riguarda la traduzione, ha vinto per questa attività il premio Melanzane Cavour, che non è uno scherzo, e ha tradotto autori come Benjamin, come Zoderer, e ha fatto conoscere Thomas Bernhard, che poi è andato in scena in varie forme anche al Teatro di Bolzano, ha tradotto Fassbinder, quindi grossi autori, un best seller come Walter Mörs, che è un grande autore di fantasy, quindi una grossa attività anche su questo piano. Poi critico teatrale apprezzatissimo e scrittore, appunto dicevamo, 8 romanzi. Sua biografia direi che è tutto, vi proporrei questo video che è un frammento, sono 4 minuti, è un servizio del TG3 firmato da Sandra Bortolin, che purtroppo non può essere qui perché è in vacanza, beata lei, però ci ha concesso di molto volentieri, anzi è fiera di poter mostrare anche a voi, sperando che non l'abbiate già visto, ma se no vale comunque la pena. Ci spostiamo forse. Quindi, è un'intervista fatta in occasione della pubblicazione di uno dei primi romanzi gialli che Umberto fece 7-8 anni fa. I lettori di Gialli conoscono città e luoghi seguendo le orme degli assassini e i passi degli investigatori. La Parigi di Simenon, la Barcellona di Montanari, la Marsiglia di Zo, la Svezia di Manche, la Sicilia di Camilleri e ora la Bolzano di Umberto Cantini, giornalista e blasonato traduttore di importanti autori tedeschi. I primi 8 racconti, ed è già uno di noi, Giovanni Bidotti, soprannominato dagli ex colleghi della questura, Marrone, a furia di sentirlo citare l'investigatore Marro di Raymond Chandler. Le indagini abusive di Marrone, investigatore precario, chi è Marrone? Marrone è un poliziotto in pensione che avrebbe voluto fare il poliziotto davvero, in realtà l'hanno tenuto sempre dietro lo sportello di passaporto. Quando va in pensione, l'opportunità di occuparsi di piccole inchieste. Un solitario, un po' cinico come il vero Marrone di Chandler. Sì, però più sfumato, ecco, non è un uomo così vissuto. La cognata ha scritto i nomi del delitto. Di cui si occupa questo piccolo investigatore, sono ambientati tutti a Bolzano. Bolzano è dintorni, una puntata a Merano, poi ogni tanto si sposta, questa è la sua città, con tutte le sue caratteristiche, la presenza dei tedeschi, la presenza di tutti gli immigrati e così via. Ma non è da Bolzano turistica, è una Bolzano diversa, quella vera. Qui per esempio siamo nel quartiere popolare. In quale casa deve andare a Ma io direi una di quelle lì, di quelle laggiù, perché è un condominio, un appartamento preso con mutuo, quando era con il servizio, abita qui da solo, però quando esce di casa va e arriva verso il centro, arriva al massimo fino in piazza avanti oppure le passeggiate sul tavolo. L'appuntato Marrone non ha un ufficio e viene al bar della Doris e gli fa un po' da segretaria. Il bar era qui. No, era qui, c'è tutto un baretto molto modesto, che si aspetta, è elegante. È un caffè che a Bolzano esiste ancora, in tante versioni. Ci sono questi caffè dove i pensionati vanno, passano le ore, continuano la schedina di tutto calcio, fanno la corte alla barista correndo 70 anni alla testa. Non so, diciamo, come lo è Marlo di Chandler, è un destino che proprio nel suo bar abbiamo fatto il caffè. Lo so, sono capace di dire, sì, non era una cosa, non lo sapevo, però guardavo la legge e contrapasso. Marrone è malinconico, individualista, soprattutto umano e quindi poco contemporaneo. Il lettore di Gialli ultimamente è un poco seccato dall'eccesso di violenza, troppi morti, troppo sangue, troppa brutalità. Se uno non fa 15 persone, non cuociva la nonna, non sembra. E allora ho provato ad andare nella direzione contraria. Ho l'impressione anche che lei leggi l'enigma rispetto alla soluzione dell'enigma. Certo, la storia è la cosa più bella. E sono storie che sono tutte unite dal personaggio, dalla città di Bolzano, dall'ambiente in cui si svolgono. Il personaggio che va in giro facendo queste minime ricerche, queste minime cose, che lui non è autorizzato a investigare, non può fare niente, insomma. Però si fidano di lui, perché dà un buon senso. E noi ci fidiamo che Umberto Cantini non ci faccia aspettare troppo. storia dell'investigatore abusivo. A presto, Marlope. Sono riuscito anche a spegnere il computer. Bene, direi che è un bel frammento per ricordarlo. E qui si parlava di Marlowe, poi la promessa che ha fatto a Santa Bortolin di essere attivo poi l'ha mantenuta. E adesso siamo a questo libro, quello nuovo, giallo e nero, Umberto Gandini. Il figlio Leonardo ci racconta come nasce, perché è una storia curiosa. Sì, in realtà io mettendo un po' ordine, non tra le carte ma nei file, perché oramai le cose non si conservano nelle carte, si conservano nelle carte, mi sono ritrovato davanti a questo repertorio, raccolta di racconti, che alcuni dei quali erano con alcuni dei quali mio padre aveva partecipato a dei concorsi letterari ottenendo dei piccoli riconoscimenti, premi letterari piccoli di provincia, Cuneo, Bordighera, dove aveva avuto una menzione d'onore di qua, un piccolo premio di là, e questi racconti erano stati poi anche pubblicati a cura dell'associazione culturale che di volta in volta bandiva il premio, quindi pubblicazioncine, insomma. Ecco, altri invece erano del tutto inediti, e io ho trovato appunto questi file dove lui, forse già pensando a una pubblicazione di un libro di racconti, aveva messo insieme questi racconti, ripeto, alcuni inediti, altri no, però quasi come inediti, perché pubblicati su volumi assolutamente in un'editoria di provincia marginale, e a quel punto mi sono rivolto all'editore suo storico, Robin, che aveva pubblicato tutti i gialli di Marlow, con Marlow protagonista, e glieli ho mandati, e gli ho detto guarda un po', cerchi di capire se la cosa può interessare. Lui si è detto molto contento, e così è nata la pubblicazione, che ripeto mette insieme alcuni racconti che sono anche abbastanza datati, no? Cioè hanno una decina d'anni. Sangue Vino è un racconto con il quale lui vince un piccolo premio a Bordighera all'inizio degli anni 2010, altri invece sono completamente inediti. Sì, questo è più o meno la genesi. A casa lui parlava di questa attività parallela a quella giornalistica? Sì. Oddio, allora, a casa non lo so, perché io poi a un certo punto sono andato a vivere a Bologna, quindi i miei contatti non erano... Però ti raccontavano? Sì, lui era molto contento di questa sua attività. Un'altra cosa curiosa che abbiamo visto nel filmato è riguarda questa sua repulsione per i finali trash di tanto sì, gialli. Sì, da un lato, allora mio padre è sempre stato un grande lettore. E ieri citavi un autore che lui invece apprezzava proprio perché non è cruento. No? Stuart Kaminsky, che è sempre stato uno di lui, mio padre è sempre stato un lettore estremamente appassionato di romanzi polizieschi, ne leggeva tanti. E uno dei suoi preferiti era questo Stuart Kaminsky, che è un attore, è uno scrittore giallo neanche tanto famoso, ha pubblicato quei gialli Mondadori. Non è uno scrittore di primissima fama, però è uno scrittore che aveva come caratteristica quella di disseminare gli elementi umoristici, la detection dell'investigatore. E lui, secondo me, mettendo insieme io la sua ammirazione per Kaminsky e i contenuti dei suoi libri, lui secondo me lì ha avuto l'ispirazione. E anche la sua ironia è nata. Sì, alla caratterizzazione di un detective che non si prende troppo sul serio e che si ritrova spesso alle prese con situazioni che un po' sono sanguinarie, un po' sono ridicole, no? Certo. E poi naturalmente, esatto, come dicevo anche ieri nel programma, certo, E poi, come dicevo ieri anche nell'intervista a Mazzucato, tutto questo, in tutto questo gioca un ruolo fondamentale la sua pluridecennale esperienza di giornalista, cioè credo che come dire, la passione per la caratterizzazione dei piccoli personaggi, di questo sottobosco che vive in periferia, sia anche molto legata alla sua conoscenza della città come giornalista. Certo. Direi di entrare nel libro in questo, sì? Con una lettura. Sì. Alessandro Alimetti ci legge un frammento, perché chiaramente essendo racconti gialli non possiamo rivelare, non spoilerare, che è un termine che mi fa orrore. E si tratta della Schedina, il primo racconto di questo libro, e che secondo me potrebbe essere anche una bella commedia noir, secondo me se un regista mette le mani su questo testo. È un monologo e sentiamo cosa ci racconta. Sì signore, l'ho ucciso io quel disgraziato. E sa che cosa le dico? Lo rifarei. Ah, certo che lo rifarei. Lo ammazzerei altre 20 volte se potessi. Erano anni che mi ci arrovellavo, sa? E l'avevo studiata bene. Mai sareste riusciti a scoprirmi. Oh, se non ci fossi qui io a dirvi come ho fatto, sareste e rimarreste in bracche di tela. E vi dico soltanto perché si sappia che sono stata io a fregare lui e non lui me. Ma tutti lo devono sapere. Io creperò in galera, d'accordo, ma lui è finito sotto terra e di lì non si muoverà più, quel porco. E a spedirlo lassù. Sono stata io. Sì, signore. Ripeto, erano anni e anni che ci pensavo, anni e anni di umiliazioni, di rabbia. Al divorzio, a roba da ricchi. Quando sei una poveraccia qualsiasi, speri solo che l'altro schiatti per goderti almeno un minimo di vecchiaia in pace. Oh, sì, sì, può darsi benissimo che lo sperasse pure lui. Ma forse anche no, perché come serva io gli tornavo utile. Dopotutto, ma gli ero troppo comoda il disgraziato. Io invece, io volevo vederlo morto. Morto! Ma non chiedevo altro dalla vita. Un'ossessione era diventata. E poiché non moriva, ho pensato bene a come dargli una spinta. Farlo fuori, stenderlo, vendicarmi una volta per tutte. Ma non avevo altro per la mente. Ero diventato un rovello continuo. Aspettavo solo di trovare il coraggio e l'occasione buona. Ma l'occasione è venuta, sì, e il coraggio anche. Il piano lo avevo già. Tutto è cominciato l'altra sera, martedì. Guardavamo la TV. E che cosa guardavamo? Ma il calcio ovviamente. Lo sport, ore e ore di cretinate. Io avrei desiderato ogni tanto vedere qualcosa di meno insulso, ma lui no! Almeno oggi la TV lasciala a me, diceva. È come se negli altri giorni fossi stata io a scegliere, immaginarsi. C'era sempre una partita di coppa, un'altra di quelle fesserie, e giù calcio, un altro sport, da impazzire. L'altra sera, ad un tratto, mentre fa scorrere le notizie del televideo, lo sento fare un brusco movimento nella poltrona accanto. È stato solo un sussulto, breve, ma me ne sono accorta subito perché mica seguivo il programma io, ma il suo saltabeccare, il suo sport. Lo sbircio meglio e vedo che fa finta di nulla. E gli chiedo cosa c'è? E lui niente. Come al solito era convinto che io fossi una stupida e basta, una cretina capace solo di lasciarmi perdere. Insomma, sto più attenta e dopo un po' mi pare proprio in coda a un telegiornale danno l'estrazione del Superenalotto. E così lo scopro anch'io. Aveva fatto 5 più 1 il merdoso. E che botta! 700.000 euro, forse perfino qualcosina in più. Lo conoscevo a memoria. Le sue due serie di 6 numeri. Ma quante volte mi aveva mandato a giocare la schedina? Prima il Totocalcio, poi il Superenalotto. Ma mica muoveva le chiappe. Oh, ok, no signore. Mandava sempre me con un pretesto o con l'altro, ma soprattutto perché il disgraziato era troppo pigro e mi adoperava come se io fossi il suo galoppino. Un galoppino scemo. Giocava, si può dire da sempre, le stesse sestine. In passato, quando ci parlavamo ancora, me l'aveva anche detto. Prima o poi i numeri usciranno, allora saranno piogge di soldi. Vuole che gliele dica le sestine? Eccole. 6, 23, 48, 57, 71, 88, la prima e 13, 17, 35, 43, 49, 59, la seconda. Erano stati estratti il 6, 48, 57, 71 e l'88 e con un 23 aveva centrato il jolly. 5, più 1, una barca di scudi. Ma crede che io abbia detto anche solo barca? Ma no, signore. Zitta in mosca. Ora ti sistemo io. Ho pensato soltanto e ho continuato a rifletterci per tutta la sera mentre lui faceva indigestione di calcio e di sport. L'idea poi ha preso a girarmi per la testa come un disco rotto per tutta la notte. Non ho chiuso occhio, si può dire, ma neanche lui, per immaginarsi. 700.000 euro. Ma sono mica carta straccia, sa? Improvvisamente scopri che il mondo può diventare diverso. L'ho sentito alzarsi più volte durante la notte. No, non dormivamo più insieme da tanto tempo ormai. Non lo volevo più avere accanto, almeno di notte, quel maiale. Così con la scusa che russava l'avevo mandato a dormire nella stanza che era stata di nostro figlio, prima che quello se ne andasse a vivere per conto suo. Insomma, si è alzato e so anche che cosa è andato a fare, tra l'altro. È andato a nascondere la schedina nel solito posto, dentro la copertina di un libro. È uno dei pochi che abbiamo per la casa e che nessuno ha mai visto. Ogni volta che aveva qualche documento importante da mettere da parte, lo riproduce. È un libro di Pirandello, mi pare. Ah, sì, sì, Pirandello, novelle per un anno. Un libro è così. Non in questo, ma in almeno 5 degli altri racconti, lo sfondo, il teatro della vicenda è l'Alto Adige o Bolzano. Ecco, quanto Umberto era legato, aveva un rapporto di amore e odio o era solo amore, quello per la sua terra? Ma sicuramente era molto legato alla sua terra, molto era un rapporto di grande amore, certo. La conosceva bene, qui era il posto dove aveva fatto una carriera e non se l'era mai sentita di andare via. Avrebbe probabilmente potuto. Sì, diciamo che per esempio quando c'è stata quell'esperienza alternativa col giorno, col quotidiano, il giorno, lui credo, per quello che io ricordo, avrebbe anche potuto fare la scelta di andare a lavorare a Milano, però alla fine non se l'è sentita, certo. ed è rimasto anche molto volentieri. Invece c'è un racconto che si intitola Zio Ilario, in cui c'è il mondo mistilingue al tuo tesino. Sì, sì. Che idea aveva lui di questa convivenza? Ne parlava a casa? No, non particolarmente, però bisogna dire che in qualche modo mio padre è stato un testimone di tutte le questioni più o meno risolte, più o meno pacifiche, e anche più o meno conflittuali. Che lui chiamava con un termine che a me piaceva molto, piccinerie. Sì, cioè, sì, sì. Cioè. Era, a un certo punto si era ritagliato il ruolo di esperto delle questioni e dei conflitti tra, cioè. tra i due gruppi, no? Quello di lingua italiana e quello di lingua tedesca, e a un certo punto era anche con molta ironia commentava anche a casa il fatto che puntualmente lo invitassero a pronunciarsi sull'argomento in televisione, nelle televisioni locali, sebbene lui fondamentalmente avesse sempre le stesse cose da dire, cioè non succedeva niente di nuovo, cioè, come sapete meglio di me, il rapporto fra i due gruppi linguistici ha vissuto fasi drammatiche, conflittuali negli anni 60, ma poi a un certo punto si è assestato su un livello di pacifica convivenza. Ecco, no? Ciò nonostante lui ogni tanto veniva interpellato sull'argomento. Certo. Facciamo lavorare ancora Alessandra. Sì. Misure di sicurezza è un racconto di una rapina sventata da una stranissima guardia, anche se il finale, anche in questo caso, ve lo risparmiamo. Grazie. se no Ubik che è qui a vendere i libri. Alla fine potete appunto accedere al, al conto qui. Bene, e allora misure di sicurezza. Vi assicuro, era proprio una bella banchina. No, nel senso di piccola banca. Cioè, l'ho preciso per quei pochi che non avessero afferrato subito il concetto. Una banchetta, insomma. Ideale, almeno dal punto di vista mio, che vivacchio rapinando banche, poche, pochissime. Qualche tabaccheria e, se proprio, proprio non c'è di meglio, strappando le borsette alle donne che mi capitano a tiro nelle strade semibuie scarsamente frequentate di una certa periferia residenziale. Sempre la professionista però, sempre la professionista. No, ci tengo a dirlo. Io non sono un balordo qualunque, né un immigrato disperato di quelli che ci rovinano la piazza. Torniamo alla banchina. Non che fosse una banca vera e propria, sei chiaro, solo un'agenzia o succursale di media tacca con pochi impiegati, e però, però, un promettente via vai clienti. Specialmente il venerdì, quando in alcune stradine laterali si svolge un mercato rionale di quelli con le bancarelle piene di jeans e di ortaggi freschi. In prossimità dell'orario di chiusura della banchetta, i bancarellari e i bottegai dei dintorni ci andavano a depositare l'incasso. Ed era quello il momento in cui, in presenza di tanto liquido, occorreva andare ad attingere. Alla mia maniera spiccia, come avrete già certamente afferrato, ma becca ancora. La stavo osservando e studiando, per lo più seduto anche quella volta in un bar, da quando, giorni prima, l'avevo adocchiata durante uno dei miei tanti giri di ispezione in motorino in cerca di mele mature da cogliere al volo. Davanti alla banchina, una strada, o meglio, uno stradone doppio con in mezzo una lunghissima aiuola costellata di alberelli stenti, cespugli rosi dallo smog, panchine scrostate e cacche di cane. Sul versante della banca il traffico si muoveva a senso unico in direzione degli stabilimenti che si intravedevano nella campagna. Anche sul versante del bar, inserito in un casone pieno di uffici e di appartamenti, il senso di marcia era unico, ma diretto verso il centro. Inoltre di qui e di là i soliti nastri di marciapiedi fatti più di buco che d'asfalto. E infine, pressa poco, fra banca e bar, di traverso, le strisce pedonali. Il tutto tuffato almeno di giorno in un casino che non vi dico, soprattutto a causa delle automobili posteggiate disordinatamente dappertutto, nonostante i segnali di divieto. Le lasciavano a caridosso e in parte addirittura dentro l'aiuola, nei bordi della quale le ruote dei veicoli avevano scavato solchi profondi. La circolazione, alla faccia dei due sensi separati di marcia, scorreva, per modo di dire, intasata com'era dai parcheggi abusivi che ostacolavano in particolare il passaggio di autobus e di camion. E quindi di giorno era tutto uno strombazzare, un urlar parolacce attraverso i finestrini abbassati, uno scambiare di gestacci da parte di automobilisti incazzati con altri automobilisti non meno incavolati. Uno dei segnali di divieto di sosta era stato addirittura mezzo divelto e piegato da qualcuno che doveva esserci finito contro con un carro armato o con qualcosa di simile. In caso d'allarme, la polizia ci avrebbe messo un sacco di tempo ad arrivare. E soprattutto poteva arrivare da un senso di marcia soltanto, mentre io col motorino e il malloppo me la sarei svignata dall'altro. Ma come facevo a essere così sicuro? Mi pareva di avervelo già spiegato. Io sono un rapinatore, mica un commercialista, un pizzaiolo. Un rapinatore, se è. Certi dettagli vanno accertati prima, e bene, altrimenti ci si ritrova esattamente dove sono finito io, fino all'altro ieri, e cioè in prigione. E per lo più per una cretineria. Ah, ma io non sono un cretino, eh. Io in quella stramaledetta circostanza sono stato soltanto la vittima sfortunata di un caso più unico che raro. Nella nostra epoca altamente tecnologicizzata, di rifiuto del progresso al servizio della protezione degli istituti di credito. La trama di questi racconti è piuttosto originale, però il modo in cui Umberto sbozzava certi personaggi improbabili, improbabili era un altro aggettivo che lui usava volentieri, ma soprattutto non tanto i malfattori quanto addirittura gli investigatori, sono spesso buffi, pensi che fosse anche un retaggio di anni di cronaca giudiziaria? Sì, senz'altro. C'era qualche episodio che... No, è chiaro che lì cioè la conoscenza degli spazi intesi come città di Bolzano e la conoscenza dei personaggi sono tutti figli dell'attività giornalistica. Mio padre ha fatto anni appunto il giro di Nera, di Nera e poi il tribunale, e lì evidentemente è entrato in contatto con tutto un repertorio di individui che gli si sono impressi nella memoria e che gli sono poi venuti utili quando si è trattato di scrivere i racconti. Anche perché la sua passione di giallista si è molto rapidamente orientata verso il giallo all'americana piuttosto che il giallo all'inglese, no? Il giallo all'inglese è il giallo del detective che fondamentalmente sta chiuso in casa, Sherlock Holmes per dire, no? Cioè sta chiuso in casa e ragiona intellettualmente sui casi che alla fine arrivano più sul territorio, insomma. Esatto, mentre nel giallo americano, che è sempre quello che mio padre ha prediletto, è un giallo dove il detective si consuma le suole delle scarpe camminando lungo la città, e quindi da qui la centralità dello spazio come nei racconti. Ce n'è uno che puoi dire sia il tuo preferito? Sì, allora, ce n'è uno che paradossalmente mi ero anche chiesto se fosse il caso di includere, perché non è in fondo un racconto giallo, si chiama Riscriverà, ed è secondo me il migliore di tutti, però non è un racconto, è un racconto che non ha al suo centro un delitto, un colpevole, è un racconto quasi più esistenziale, no? Molto psicologico. Esatto, non è un racconto giallo strettamente inteso, e quindi in qualche modo è un po' un intruso all'interno della collezione, però secondo me è il migliore, è il migliore di tutti, proprio perché ha questa modalità un po' evocativa di... Invece noi vi proponiamo una cosa un po' più Sangue e Vino, perché è il titolo anche che è uno dei racconti con cui mio padre, la schedina e Sangue e Vino sono i due racconti con cui mio padre aveva non vinto, però insomma ottenuto dei riconoscimenti, questi premi letterari, dove a un certo punto ne menzionavano sei di tutti quelli che ricevevano, e il premio era la pubblicazione in una piccola antologia appunto dei racconti segnalati. Io posso leggere anche Sangue e Vino, ma tu mi hai detto che devo leggere Ficcanaso. Ficcanaso era l'ultimo, ma non c'è problema. Ficcanaso assolutamente sì. Ok. Abbiamo qui il protagonista. Ok. A che pagina è Sangue e Vino? All'impronto. 102. Thank you. Improvvisiamo. Dimmi fin dove, da dove a dove. San Virgino. No, se no andiamo direttamente su quello. Io andrei direttamente sì, sulla. Facciamo. Ma così se lo leggono direttamente con il capito. Ma immagino lo legge tutto lei. Chiediamo se scusa. Lo leggo tutto, se no lo tengo anche a casa, se volete. Finché non la facciamo. Ti aspettiamo. Va bene. Solo due parole per introdurlo, perché questo è il racconto conclusivo. Il protagonista, suo malgrado, è qui in sala, è uno dei protagonisti del racconto, Ettore Frangipane, collega chiaramente di lunga data di Umberto, e il Ficcanaso in questione è proprio lui, in senso buono ovviamente, perché come esploratore delle notizie, della cronaca d'antan e non solo, negli ultimi 150 anni, no? Come frequentatore quotidiano della biblioteca Tesman, eccetera, il nostro Ettore Frangipane può essere una minaccia per un malfattore che, per nascondere il suo passato e per fare carriera, vuole darsi alla politica. Siccome non è conosciuto, teme però che il lavoro di esplorazione della cronaca da parte del famoso giornalista gli possa svelare la sua vera identità. In questo senso sei il Ficcanaso della storia, però sei proprio il protagonista. È appunto un malfattore che tenta la carriera politica e quindi crea qualche problema a Ettore, in quanto minaccia per la sua incognita. Mi tranquillizzi, eh? Non dove volevi parare, cioè dove Umberto voleva parare, ma ne esco a testa quasi alta. Assolutamente, sei la vittima. È bellissimo, e questo non è un monologo. La mancata vittima, ma non ti posso dire tutto, se no lo comprendiva. Peppa Thaler ripiegò i giornali e meditò sulla sua sorte. Aveva sempre vissuto sfruttando i vecchi, i nonni prima, i pensionati poi. Li aveva attesi all'uscita degli uffici postali, a Brunico, a Bressanone per lo più, nei giorni in cui andavano a prelevare le pensioni. Li aveva seguiti fino a quando aveva potuto saltar loro addosso senza eccessivo rischio e sbattere loro sul cranio uno sfollagente di sua concezione, un calzetto per metà pieno di sabbia. E quando quelli erano per terra a chiedersi che asteroide mai fosse loro piombato sull'occipite, aveva alleggerite della busta con i soldi appena riscossi e tanti saluti. Fino al giorno in cui il suo sfollagente non aveva incontrato una crapa più dura di un cubetto di porfido. La vecchiaccia, aggrappata alla borsetta in cui aveva riposto i quattrini, aveva strillato tanto da far accorrere, oltre ai caramba e alla pula, mezza città. Conseguenza, 7 anni, 6 mesi di reclusione per rapina plurima aggravata e lesioni personali plurime aggravate. Per buona condotta gli avevano ridotto la pena di 2 anni, ma 5 e passa Peppa se li era dovuti sciroppare. In carcere aveva imparato, fra le altre, 2 cose importanti. La prima gliel'aveva illustrata un marocchino: se vuoi accoltellare qualcuno, fallo d'inverno quando 3 o 4 strati di indumenti trattengono i fiotti di sangue. A volte si accorgono che uno è morto trafitto e non di infarto solo quando lo spogliano all'obitorio. L'altro frutto del soggiorno dietro le sbarre era ciò che Peppa aveva appreso sul meccanismo elettorale provinciale altoatesino, leggendo un fascicolo trovato per caso nella biblioteca della prigione. Prima ancora di uscire dal carcere e di farsi riabilitare al fine di riottenere i diritti civili, compresi l'elettorato attivo e passivo, aveva già mentalmente fondato quello che sarebbe stato il suo partito, il Movimento degli Anziani, detto Manzi, ovvero la Bewegung der Alten, detta Balten. Lo sfruttamento dell'altrui vecchiezza sarebbe così passato dalla grassazione brutale dei pensionati al proposito di estorcere loro i voti necessari per essere eletto in consiglio provinciale e indirettamente in quello regionale e intascare per 4 anni laute prebende mensili sicuramente incrementate dalle indennità, dai gettoni, dalle diarie spettanti, dice di qualcuno, di un assessore o di un presidente. Cariche che in provincia e in regione, se si era alleati della Südtiroler Volkspartei, obiettivo che Peppa si era fermamente proposto, non si negavano a nessuno. E se tutto fosse andato per il verso giusto, sarebbe anche riuscito a farsi rieleggere dopo 4 anni e poi dopo 8 anni, fino a garantirsi quel corposo vitalizio che gli avrebbe consentito di campare grattandosi gli zebedei sino alla lontana, lontanissima fine dei suoi giorni. Peppa, sintesi di Peter Paul, Thaler, sospirò e poi imprecò mentalmente: sempre che quello scassacazzi di frangipane non mi spacchi marroni nel paniere, scoprendo e rivelando nei suoi scritti per l'Alto Adige che il Pierpaolo della Valle, leader del Manzi, altro non è che il Pierpaolo della Valle che aveva a suo tempo acquistato fama di randellatore dei pensionati. Quel cognome, della Valle, era stato affibbiato a suo nonno dai fascisti, secondo i quali i Thaler, traduzione letterale, valligiani, che popolavano numerosi l'Alto Adige, erano solo finti tedeschi da italianizzare. Cacciati i fascisti, la mamma di Peppa, madre nubile, essendosi il papà di Peppa, guardia di finanza lucano, squagliato chissà dove in violazione della promessa di matrimonio, si sarebbe potuta far rinominare Thaler, ma non le era parso importante. Il figlio illegittimo si era invece tenuto i 2 cognomi, convinto che l'ambiguità, prima o poi, potesse tornargli utile. Il che era stato relativamente vero fino al giorno in cui aveva dovuto constatare che sui papiri ufficiali lui figurava sempre soltanto come Pierpaolo della Valle, sulla carta d'identità come sul manifesto degli aspiranti consiglieri provinciali, nei quali compariva nelle vesti di capolista del Movimento degli Anziani Bewegung der Alten. L'orizzonte, si ripeté per l'ennesima volta, sarebbe stato roseo all'appello «Votate Manzi!» Weltbalten, avrebbero risposto positivamente in tanti, perché l'elenco delle rivendicazioni del suo raggruppamento politico era tale da far venire l'acquolina in bocca a tutti quegli sdentati che costituivano la maggioranza della popolazione altoatesina. Sarebbe e avrebbero. Sempre che Ettore Frangipane, con la sua mania di scavare nel passato per dare agli italiani dell'Alto Adige quell'identità geografica che a loro nipoti e bisnipoti di immigrati ancora mancava, non avesse scoperto nelle pagine dei giornali di una volta che l'acclamato Pepa Thaler, vessillifero della terza e della quarta età, altri non era che era il Pierpaolo della Valle, a suo tempo terrore armato di calzetto imbottito dei percettori del trattamento di quiescenza. Lungo la strada che portava al vitalizio, l'infame Frangi, così si firmava sulle vignette che disegnava, era l'unico ostacolo. Poteva anche darsi che quel rompiballe non scoprisse un amato cazzo, che non sommasse 2 più 2, che gli sfuggisse la correlazione tra rapine ed elezioni provinciali, ma la posta in palio era troppo alta per poterla esporre al può darsi. E poiché era impossibile far sparire tutte le raccolte di giornali che menzionavano il suo passato, a Pepa non restava che una soluzione drastica: far sparire il frangipane, accopparlo. Peter Paul Thaler tracannò un gotto di Maddalena e si accinse a elaborare un nuovo piano per ammazzare il nefando ficcanaso. Io mi avvierei al finale con una piccola riflessione. Umberto aveva questi racconti in caldo, non sapevo mai se lui li avrebbe considerati già pronti per la pubblicazione, probabilmente altri li aveva in testa, la sua fantasia ha dimostrato di saper coltivare. Ecco, un'ultima riflessione, cosa direbbe lui oggi di questo libro? Ah, sarebbe contento. Sì, lui era molto orgoglioso della sua attività di giallista, che all'inizio, c'è un inizio che risale ai primi anni 80, direi, che è un libro che lui pubblica sotto pseudonimo, Un pacco per Budapest, che è più un romanzo di spionaggio, Sperling e Kupfer, che non ha un gran successo e lui gli interrompe l'attività. Poi la riprende, direi, 10-15 anni dopo, e i raccontini segnalati in questi premi letterari di provincia lo inorgogliscono molto. Anche perché tutte le volte poi offrono il destro di andare con mia madre in queste città di provincia dove si fanno delle ottime bevute, delle ottime mangiate, perché i premi letterari spesso hanno questo côté gastronomico che non è affatto indifferente al loro fascino, ma questi piccoli premi insomma ne consolidano un po' la sicurezza nel fatto che mio padre era un giornalista, non aveva alcun dubbio sulla sua qualità di giornalista e non aveva neanche alcun dubbio sulla sua qualità di traduttore. Aveva invece qualche dubbio iniziale sulla sua qualità di scrittore di polizieschi, perché era per lui, significava cimentarsi in un'attività completamente nuova, no? Beh, un pudore che ha superato bene. Sì. No, l'ha superato anche perché questi piccoli riconoscimenti nei premi letterari di provincia gli hanno dato, la sicurezza necessaria, la confidenza, necessaria nel proseguire e scrivere. Bene, se non ci sono domande particolari. Posso dire una cosetta breve? Assolutamente, sì. Marino, non in qualità di... ho conosciuto Umberto, che ha iniziato la carriera giornalistica un anno dopo di me. Anno 1954, una roba del genere, pensate. Preistoria quasi. Facevamo un giro di cronaca insieme. Giro di cronaca vuol dire passare da un... recapito all'altro da quale si possa desumere qualcosa, quindi la visita ai carabinieri, la visita in questura, la visita in polizia. polizia ferroviaria, in ospedale naturalmente. Eravamo in quattro all'inizio, e c'era, oltre a me, cito me per primo, c'era Giancarlo Vincenti per l'Adige, c'era Franz Berger per il Dolomite, Franz Berger è morto, e lo seguirò dopo. E basta. E andavamo di tappa in tappa, e una volta facevamo anche uno scherzo un po' da preti, se mi consentite, a Umberto, perché ecco, ho capito questo, che il giornale, l'Alto Adige, non ammetteva che il proprio cronista andasse a cercare cronaca con gli altri cronisti, perché allora non avrebbe potuto fare degli scoop. Allora cosa avvenne? Che noi, Berger, Vincenti ed io, ci mettemmo d'accordo e progettammo un fatto, era il tempo degli attentati, che sarebbe avvenuto nella Bassa Tesina, ma che era competenza e conoscenza nostra, mentre i carabinieri non volevano che ci sapesse. Una roba del genere. E facemmo capire, con allusioni e cose varie, a Umberto, che era arrivato dopo di noi, che in quel giorno era capitato quella certa cosa e che qualcosa si sarebbe scritto. E lui cercava di capire, di chiedere a noi, e noi malignamente tiravamo il dito. Si suol dire in campellaglia. Non apparve nulla di quella pseudo notizia, naturalmente, sull'Adige, sul Dolomite, nella RAI. Ma l'Alto Adige, che aveva sentito che c'era stato qualcosa che non era riuscito, che Umberto non era riuscito ad appurare, ne scrisse e fece capire che era venuto, disse che era venuto qualcosa di tremendo nell'ambito del terrorismo al Tartegino, che i carabinieri e le altre autorità non avevano voluto confessare. Lo scrisse. una fake news d'epoca. Una fake news d'epoca. Umberto non si meritava, naturalmente. L'indomani, dopo quell'episodio, l'Adige scrisse un titolo che più o meno suonava così: il terrorismo nella Bassa Atesina, ma non è una cosa seria. E poi è scritto da Umberto Galasso, che era il capo redattore dell'Adige sede di Bolzano, col quale naturalmente se la prendeva con giornale Alto Adige, ridicolizzandolo un po'. Umberto è stato un signore, non ha detto niente, noi ci siamo vergognati un po', non Vincenti, io di sicuro, e anche il buon Franz Berger, e tutto finito. Grazie. Siamo assorbiti? Ah, c'è una domanda? Volevo anche io ricordare la figura di Umberto Gandini solo per questo. L'ho conosciuto nel passato e spiccava veramente nel panorama dei giornalisti, un giornalista, un cavallo di razza, diciamo così. Mi viene il dubbio, la domanda, anche così ripercorrendo un po' questi suoi vari aspetti, diciamo, di cui spiccava questa figura, quale secondo te, Leonardo, era, se si potesse ricordare, la cifra principale? Perché abbiamo capito che è stato nello stesso tempo un grande cronista, no? Pur nella vicenda provinciale, no? un notista politico, perché gli ho ricordato che veniva interpellato anche sulle vicende più scottanti, diciamo così, no? delle vicende politiche, dell'arena, del panorama politico. Però è stato anche narratore, un critico d'arte, soprattutto di teatro, no? Ricordiamo che soprattutto quello che faceva sul teatro, diciamo, in Alto Adige, è stato per decenni, insomma, la voce critica sulla realtà teatrale, no? Sulla produzione teatrale locale, no? Facendo uscire anche dal provincialismo, no? questa cultura locale. un traduttore, quindi l'aspetto anche interculturale, interlinguistico, e poi un narratore, con tutti questi libri che ha scritto e anche come scrittura dei gialli. Noi lo abbiamo ricordato anche su Cristallo, di cui era stato grande collaboratore anche lì per molti anni, con un articolo l'anno scorso di Fabio, il Burbero Benefico, e un articolo anche di un articolo abbastanza approfondito di Massimo Bertoldi, che speravo che ci fosse qua, invece non c'è oggi, che ha scritto proprio sulla sua attività di critico teatrale, no? Massimo Bertoldi ha preso un po' la sua eredità nella critica teatrale che esce sulle pagine dell'Alto Adige. Ed è una figura veramente che sentiamo anche come rappresentanti di questa rivista di cultura che lui aveva seguito come tanti altri in Italia dalla fine degli anni 50, insomma, scrivendo regolarmente su questa rivista, l'abbiamo sentito diciamo come un amico, un collega, un compagno di strada con le sue competenze. È difficile, te lo chiedo appunto anche a te, come se era una figura così, diciamo, multitask, così versatile, capace di passare un po' tra tutti questi ambiti, o se a tuo parere, e anche tuo, era più l'una che l'altra di queste 4-5 competenze che ha esercitato così, così bene, insomma, no? In tutta la sua vita. Che è una domanda, è una bella domanda, ma anche una domanda complicata a cui rispondere. In parte hai risposto prima dicendo, sì, che lui stesso considerava quello dello scrittore forse un divertimento finale legato, sì, alla pensione, sì, al tempo libero. Sì. Secondo me alla base c'era il giornalista. Io ho sempre pensato questo. Questa era la cosa di cui lui era più orgoglioso, a cui lui più teneva. Le altre cose poi si sono formate un po' col tempo, no? La traduzione, la passione per il teatro, l'attività di critico teatrale e in ultimo, in senso cronologico del termine, l'attività di narratore poliziesco. Però il giornalista era sicuramente la cosa più importante, era anche la cosa più importante per lui, era la cosa più importante per lui, sicuramente. Ed è quella sulla quale poi si sviluppa il resto, non so come dire, no? Cioè, tutto, le radici sono lì. Ecco, poi ci sono altri ambiti percorsi con grande talento, con grande entusiasmo, con grande piacere, perché mio padre era uno molto contento di tradurre, era molto contento di andare a teatro. Infatti, sulla traduzione, un piccolo particolare curioso: quando ha compiuto, non so se 80 o 81 anni, in pratica le grosse case editrici che gli affidavano le traduzioni hanno cominciato a non dargliele più, perché guardavano la data di nascita e dicevano: questo mi inizia a tradurre il libro e poi me lo lascia a metà. Sì, sì. Questo è stato un duro, lo diceva chiaramente con ironia, ma era così. Praticamente hanno smesso di dargli le traduzioni perché, guardando la data di nascita, poteva, sì, sì. E lui ci teneva molto a questo, quindi ma questo è un episodio. Sì, sì, sì, ci è rimasto anche un po' male, bisogna dire la verità. E d'altronde però lo faceva con grande piacere. E con risultati importanti. Esatto. Con autori grandi. Bisogna anche ricordare che mio padre ha trascorso gli ultimi anni della sua vita in casa di riposo e io ho trovato addirittura dei contratti di traduzione prestigiosi, Einaudi per dire, con l'intestazione della casa di riposo, cioè lui in casa di riposo lavorava come traduttore, lavorava in casa di riposo, il che è credo una condizione anomale per uno che sta in una casa di riposo, giusto? Ma questa cosa del lavorare in una casa di riposo, cioè traducendo un libro dall'inizio alla fine in casa di riposo, ok? E quindi guadagnando dei soldi stando in casa di riposo, gli dava anche un po' di come dire, di era anche un po' un antidoto alla malinconia che può venire una persona che a un certo punto entra in una casa di riposo, no? Perché si sentiva comunque una persona intellettualmente attiva, una persona che lavora, semplicemente non sta più a casa, sta in una casa di riposo. Che è una cosa che a me faceva sempre molto sorridere, no? Cioè, Io non so quante persone in una casa di riposo continuano a lavorare. Di solito quando sei in casa di riposo hai chiuso col mondo del lavoro. Lui invece continuava lì. Però ecco, per rispondere, ed è una risposta personale, cioè io la penso così, non è detto che sia così, lui non si è mai espresso in termini di gerarchia rispetto a tutte le cose che ha fatto nella vita con me, quindi non sto dando la sua versione, sto dando la mia versione. Secondo me il giornalismo era lo zoccolo duro su cui poi si è sviluppato tutto il resto. Le sue critiche teatrali erano splendide, molto profonde, documentate, veramente lasciavano il desiderio di conoscere più profondamente l'autore, questo è da dirsi. Quindi lui ha amato il teatro da sempre. Sì, sì, senz'altro, senz'altro. Accanto al giornalismo c'era una passione. Certo, certo. Bene, se non ci sono altre riflessioni. Io vi ringrazio. Ah no, c'è un... È una curiosità tecnica la mia. Il Mascalzone che voleva diventare politico, forse adesso c'è una situazione opposta. A parte questo, parla di mandato quadriennale, mi sembra. Poi invece sono quinquennali, si sono estesi con gli anni oppure una fantasia, diciamo, poetica. Non lo so. Sarà una licenza poetica. Non lo so. Perché 5 anni avrebbe coltivato ancora di più. Vi ringrazio moltissimo. Grazie.